Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sono le 21:02. Buonasera a tutti. Questa è Blue Radio Veneto di questo 23 gennaio 2013. Un saluto particolare da questa voce nuova di questa emittente, Gilles Facchinelli, che da questa sera e per ogni mercoledì vi terrà compagnia fino alle ore 20:45 circa con delle interviste telefoniche con artisti emergenti della nostra musica italiana. Ma non sono solo, con me c'è per me un grandissimo mito, l'enciclopedia vivente della musica, il carissimo collega Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Gil, buonasera ai nostri ascoltatori. Per qualcuno suona anche Nornetto, però insomma sono qua per accompagnarti in questa nuova avventura. Tu che hai fatto molti anni fa la radio, poi sei venuto qua e ti è scoppiata la voglia di ritornare. Sì, è stato seguendo una trasmissione nostra. È così, vero Gil? È stato un caso, dovevo venire qui per fare gli auguri a un carissimo amico, ex e attuale collega di radio, che è qui con noi, Agostino Spolaore. È lui che sovraintende stasera. Stasera il buon Agostino mi fa da tutor. Da tutor, esatto. Ecco, e quindi un bel ritorno dopo tanti anni, tantissima emozione, perché non nascondo che sono emozionatissimo, perché ritornare a fare radio dopo tanti anni non è una cosa semplice, però è una cosa che si fa con il cuore, quindi quando le cose si fanno con il cuore ci si mette tutto per fare. Perché fare la radio è un amore fortissimo che non ci lascia mai, secondo me, rimane sempre, c'è poco da fare. Esattamente, questo è sicuro. Bene, stasera apriamo, cioè cominciamo questa tua partecipazione ai nostri programmi, alla nostra famiglia, con un musicista di valente, secondo me, un musicista interessante. Sì, è un validissimo artista. Io in questi giorni non ti nascondo che l'ho, come si dice, mercato strettissimo, perché è un musicista che a me piace, ha una voce inconfondibile, avvolgente. E sa amalgamare varie sonorità, jazz, tango, bossa nova, musica orientale, poi comunque lo ascolteremo, ecco. E comunque voglio presentarvelo così, lui si chiama Roberto Giordi. Ciao Roberto. Ciao a tutti, ciao Gilli, a tutti gli ascoltatori e un saluto a Agostino, glielo dovevo. Ecco, esatto, che il nostro stasera lui sovraintende, caro Roberto. Lo so, saluto. Ecco, comunque tra pochi minuti è uscito un attimo, poi magari a fine programma sicuramente o durante il programma te lo faremo salutare. Roberto, innanzitutto come va? Come andiamo? Beh, abbastanza bene, dai, a parte il freddo, insomma, questi giorni della merla, no? Ci avviciniamo. Sì, quasi febbraio, hai ragione Roberto. Quindi... Allora Roberto, noi dobbiamo parlare di questo un po' di te, poi parleremo un po' leggermente un po' la tua storia per chi non conosce Roberto Giordi. Intanto diciamo che sei napoletano, ma vivi a Roma, Roberto, no? Ormai sì, da tantissimo. Sì, vivo a Roma, principalmente a Roma, ma adesso mi trovo a Napoli, quindi faccio un po' così, insomma, un po' Napoli, un po' Roma. Quindi sei ormai romano o ti senti ancora tantissimo napoletano? Mi sento ibrido. Ok. Cittadino del mondo. Quindi consumi poco come le macchine ibride, praticamente. Sì, esatto. Ascolta Roberto, allora parliamo un pochino di te, appunto per farti conoscere un attimino intanto da dove inizia un po' Roberto. Io direi magari di partire dal CET, cosa dici? Sì, in realtà sì, la mia prima esperienza professionale è stata diciamo l'esperienza fatta al CET di Mogol, e soprattutto grazie alla, cioè dopo che sono stato inserito, buttato lì in quel gruppo, si chiamava Il Nostro Canto Libero, e ho iniziato a fare serate importanti, addirittura mi è capitato in Albania di cantare davanti a una platea, diciamo 80.000 persone. È incredibile. È lì che insomma è iniziata la mia avventura professionale. Avevo sempre insomma cantato e suonato un po' in giro, piano bar, ma mai esperienze così importanti, e quindi da lì è iniziato il mio percorso, diciamo, prima da interprete, poi ho iniziato a scrivere, a comporre delle canzoni, fino poi all'incontro con Alessandro Elman, che insomma è stato decisivo nella mia carriera breve. Diciamo anche chi è Alessandro Elman. Alessandro Elman è intanto un mio amico adesso, ci siamo conosciuti per caso, compositore, cerca autore, sai, proprio nei mercatini musicali, siti internet, così. Quindi per caso un giorno l'ho incontrato a Roma e mi ha dato delle sue canzoni, io dico vabbè, ascolto. Sono rimasto veramente senza fiato, perché ho detto ma com'è? Cioè, perché non è conosciuto? Perché veramente c'aveva dei pezzi meravigliosi. E da lì è iniziata la collaborazione, con lui ho fatto il primo disco. Insomma, lui ha scritto i testi, le musiche un po' mie, un po' di Fabrizio Gatti. E poi dal primo al secondo disco, insomma, siamo anche forse un po' evoluti musicalmente, non so, poi a voi insomma decidere quale dei due è più bello. Adesso presentiamo il secondo. Sicuramente vi siete evoluti musicalmente, tu ti sei evoluto, perché almeno nel secondo disco, che adesso presenteremo qualche pezzo, chiaramente abbiamo scelto io e G e te pezzi da presentare, hai cercato da passare dal cantautorato a trasformare il cantautorato, ricercando, sperimentando. Cosa dici, Roberto? Esatto, no, infatti diciamo che la cosa che mi piace, cioè, poi non so, magari a qualcuno non piace, è proprio quella di prendere la canzone d'autore e farla diventare un po' più world, no? Cioè, tra virgolette, e cercare un po' di riscattarla dalla solita esibizione chitarra e voce, un po', cioè voglio dire, sia nel primo che nel secondo disco, cioè per me c'è un'attenzione profonda all'arrangiamento e soprattutto, insomma, fatto con gusto, no? Cioè c'è molta ricerca proprio nelle armonie, nella composizione. Nella scuola del CET vale, allora, o no? La scuola sì, del CET dici? Sì, del CET vale, sì, su questo. Sì, come no. Sì, è una base importantissima. Sì, anche perché lì insomma ho collaborato con Detto Mariano, che mi ha insegnato veramente tanto, il grande, lo conoscete tutti. Ha lanciato un sacco di cose, è stato l'uomo segreto qualche volta di Celentano e di tanti altri del clan, quindi è un passato glorioso, Detto Mariano. Sì, e poi con Giuseppe Barbera, che è uno dei più grandi pianisti, diciamo, compositori italiani, insomma, e quindi grazie anche a lui eravamo molto amici, quindi abbiamo veramente lavorato su certe cose. Quindi insomma, questo bagaglio di esperienze, soprattutto anche perché io ascolto un po' di tutto, e diciamo, cioè dalla musica classica all'opera, il jazz soprattutto, e adesso mi sto dedicando un po' a queste cose dall'Oriente, no? Soprattutto un po' maghrebine, un po'. Che poi ascolteremo queste sonorità un po' particolari, anche perché non sono sicuramente scelte facili. Poi ci racconterai anche com'è nata questa passione anche per queste musiche orientali. Comunque parlavamo anche un attimino prima dell'evoluzione tra il primo e il secondo CD. Io ho avuto modo di ascoltare anche il primo CD con il mio nome, personalmente mi è piaciuto tantissimo, e comunque anche lì le recensioni sono state molto gratificanti, sì, nei tuoi confronti. Sì, anche se bisogna dire che a molti piace più il primo, quindi insomma è veramente fatto di gusto, cioè, quindi per me sono belli entrambi, per cui, Diciamo che ascoltando il primo, che personalmente mi è piaciuto tantissimo, è un cambio che si fa, quindi bisogna anche un po', come si dice, ascoltarlo qualche volta in più per apprezzarne poi le sonorità, e poi parlare, appunto, a dar modo all'artista di poter parlare di come è nato questo, di come è stato creato, e il perché ci sono queste sonorità che sicuramente poi magari vengono apprezzate ancora di più. Certo, sì. Ecco, allora Maurizio, io direi sì, che possiamo inserire un attimo, certo, il primo brano che abbiamo scelto, tra l'altro anche con Roberto. Roberto, prima di inserire questo brano, che si chiama La Via del Deserto, tu canti con Yasmin Sannino. Sì, Yasmin Sannino è una cantante attrice romana, e lei è metà romana e metà turca. E tra l'altro ha cantato anche la colonna sonora delle Fate Ignoranti di Ospedec, quindi qualcuno la conosce per quella canzone originale del film. E niente, è stato veramente un onore per me cantare con lei, perché diciamo era proprio quello che mi serviva. Cercavo questa voce un po', diciamo, etnica, no? Un po' esotica. E l'ho trovata a Roma, quindi, quindi è stato veramente tra l'altro un regalo che mi ha fatto Yasmin, perché veramente l'ha fatto in per il piacere della musica e per il piacere della collaborazione. Certo, e che tra l'altro è anche una bellissima ragazza. È molto bella, non lo voglio dire perché insomma pare che mi voglio far pubblicità, insomma, un po' usando la bellezza fisica e anche spirituale di Yasmin, certo, ma certo. Oltre ad essere bella dentro è bella proprio fuori, veramente bella. E canta anche bene comunque. Sì. Allora andiamo con il primo brano, Roberto, La via del deserto di Roberto Jordi. In un giorno qualunque, come un fiato di luce, un pensiero ti sfiora e dà senso alle cose. Cerca dove la sabbia ha negato le strade, lascia dietro le spalle ogni peso di sale. Essere nudo, dovrai essere solo. Per trovare te stesso, devi esserti perso. In un giorno qualunque, in un qualunque deserto, al waktu. Blue time. Eccoci di ritorno allora, Maurizio. Sì, caro Roberto, la via del deserto, questo uso leggero, non pesante, ma leggero dell'elettronica, che è presente grazie alla voce di Jasmine che la conduce, che la circonda, che la aumenta, che la distringe. Sì. Abbiamo voluto usare volutamente, insomma, l'elettronica. Sì, ma sempre con una certa maniera, non invadente, Roberto, assolutamente no. Sì, ma infatti sì, cioè è stato fatto veramente tutto un po' un gusto, e tra l'altro l'elettronica ricorre anche nel resto del disco, sì. Insomma, soprattutto nella seconda parte ci sono molte sonorità elettroniche. Come mai l'idea dell'elettronica, Roberto? Perché hai voluto allargare questo discorso, sperimentare e giocando nel senso positivo con l'elettronica? Ma guarda, è veramente stato un gusto mio e dell'arrangiatore, di Vincenzo De Martino, e volevamo dare appunto, volevamo uscire un po' dal canone cantautorale, ma avevamo queste canzoni d'autore e quindi, che diciamo, la gente definisce d'autore, cercarle di farle diventare un po' più inconsuete, no? Quindi... Sì, ma non d'autore con una gabbia stretta, quello è l'importante. Sì, infatti. Abbiamo pensato anche la via del deserto, abbiamo pensato molto alla radio, no? Abbiamo pensato che potesse un po' piacere alle radio e quindi... come standard, no? Quindi... Certo, e beh, piace sicuramente, a noi sì, quindi... Roberto, io volevo chiederti una cosa, visto che si parlava sempre dei due album, no? Ci concentriamo sempre anche sul tuo secondo CD, Gli Amanti di Magritte. La differenza tra tra il tuo primo CD con Il Mio Nome e questo Gli Amanti di Magritte? Sì, guarda, l'abbiamo detto prima, in realtà è soprattutto un'evoluzione musicale. C'è più attenzione forse agli arrangiamenti e una maggiore attenzione agli arrangiamenti, soprattutto quelle. Soprattutto c'è una volontà di, abbiamo pensato quasi di fare una specie di concept album. L'album infatti è diviso in due parti, una prima parte che è un racconto d'amore, la seconda parte che raccontiamo la guerra, no? Insomma, e soprattutto il bisogno dell'uomo di prendersi cura del mondo. Invece il primo album è un po' più come se fosse una compilation di tante belle canzoni d'autore messe insieme, no? Quindi c'è forse meno, c'è un racconto minore, diciamo, una volontà, capito? Un po' più così. Di solito, Roberto, è sempre così. L'album di esordio è sempre così, cioè si raccoglie le cose fatte precedentemente. Esatto. E bravo, poi bravo, nel secondo bravo, album c'è esatto. Un'evoluzione, come tu giustamente hai detto. Un'evoluzione anche nella costruzione dei pezzi, nel cercare di limare certe cose per poi allargare l'orizzonte. E sperimentare vuol dire allargare per te, assolutamente, in questo disco. Esatto, sì, infatti è proprio così. Roberto, il titolo dell'album. Gli amanti di Magritte. Ecco, sì. Questo è interessante. Ma sì, Gli Amanti di Magritte, conoscete il quadro, no? Penso qualcuno sì, lo conosce, cioè, voglio dire, e sono i due amanti che si amano a velo, con un velo sul viso, no? Quindi queste persone che riescono ad amarsi al di là dell'apparenza, no? Quindi oppure possiamo anche interpretarlo come diciamo il veto che mette la società all'amore, no? Quindi è un po', insomma, è un po' ambigua come cosa. Certo, io sono andato a vedermi anche un po' Magritte, chi è Magritte, ho scoperto. Magritte è un pittore belga, insomma, che secondo me si avvicina un po' anche con sotto certi aspetti con il tuo legare ai testi, poi non so se mi sbaglio, Sì, in realtà poi diciamo, io penso così, tra l'altro mi è stato anche detto che già il titolo Gli Amanti di Magritte rimanda un po' diciamo al mondo francese, no? Insomma, siamo in quell'area geografica lì, e soprattutto poi anche nell'arrangiamento e nelle sonorità del pezzo proprio Gli Amanti di Magritte c'è qualcosa della Francia di fine Ottocento, no? Parliamo un po' di Satie. Qualcosa di Satie. Quindi il piano. È stato detto. Esatto, sì, il piano che Satie dà l'impressionismo praticamente. Sì, bravo, sì, siamo in quel periodo là, impressionismo, bravo. A me è piaciuto che ho trovato su René Magritte, lo definivano il sabotator tranquille. Sì, René Magritte, diciamo, supera l'impressionismo va nel surreale, però insomma sì, insomma il periodo è un po' quello. Sì, a lui piaceva attraverso i suoi quadri insinuare dubbi, un po' come anche le tue canzoni, ogni tanto insinuare qualche dubbio. Insinuare dubbi in qualsiasi immagine, sì. Roberto, allora io devo, perché poi anche ricordo la nostra pagina Facebook di Blu Radio Veneto, oppure Blu Radio Veneto Rockway, devo portarti i saluti di Gino l'ascoltautore, che è un fedelissimo di Blu Radio Veneto, Gino, che tu conosci, saluti, sì. E poi a Simona Grieco, che ha messo proprio un mi piace su Roberto Giordi, ospite da noi questa sera. Tu, Roberto, hai parlato di concept album ed è vero, perché come si usava una volta, la prima facciata e la seconda facciata. Bravo, esatto, proprio questa volontà, lato A, lato B, era insomma inteso così. È significativo, noi che abbiamo una certa età, dalle prime e seconde facciate, ricordiamo i dischi che finalmente sono leggermente ritornati su il vinile, famoso vinile, prima e seconda facciata, come si usava una volta. Roberto, io direi di passare al secondo brano di questa sera, che abbiamo scelto con te, Quando parlerò con te. Ah sì, Quando parlerò con te. Diciamo due parole su questo brano, anche il perché abbiamo scelto questo brano, perché c'è una novità dovrei, tra poco, no? Dovrei sì, perché tra... non so ancora quando, dovrei fare il videoclip, insomma, quindi usare questa canzone e fare un videoclip. E non so ancora quando, perché dovrei farlo a Milano, ma mi giungono notizie da Milano che fa freddo, nevica, per cui insomma penso di rimandare un po' le riprese. Questa canzone di cosa parla, Roberto? È una canzone d'amore, è una canzone di un soggetto che cerca di dire delle parole a lei e alla fine non sa cosa dire. Si immagina tante parole, immagina i dialoghi, immagina le situazioni, alla fine la incontra e non riesce a dirle una sola parola. Ecco, ricordiamo anche comunque che tutte queste canzoni portano i testi di Alessandro Elman, che ci sta ascoltando, mi sa. Spero sia sintonizzato. Sì, ci sta ascoltando, ho intuito. Allora ascoltiamoci questo tuo secondo brano, Quando parlerò con te, Roberto Giordi. Spalancato a giorno, indifeso nell'inverno che si sta sciogliendo intorno. Parlerò Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci qua, Roberto. Quando parlerò con te, questa musica sudamericana che si insinua in maniera giusta, non pesante, ma si insinua, dà una certa colorazione ed è molto importante. Quando parlerò con te, musicalmente si avvicina molto alla musica sudamericana. Mi senti? Bossa nova. Mi hai sentito? C'è. Prima sì, benissimo. Ok. Vai pure, Roberto. Bossa nova, sì. Decisamente bossa nova, quindi Sud America. Sì, c'è anche quello. sono un po' un viaggio da dovunque, quindi anche se non ci sono stato in certi posti, mi piace proporre, insomma, dei ritmi, delle sonorità, insomma. Sono le tante facce di questo disco, possiamo dire sì. Così, Roberto. Sì, è vero. C'è un po' di tutto, un po' un viaggio per il mondo. Giusto, un viaggio per il mondo. E nel mondo, possiamo dire anche questo. E nel mondo. E nel mondo, soprattutto perché da bossa nova. Poi ci sono delle colorazioni anche folk, poi ne parleremo. Quindi hai praticamente toccato tanti diversi tasti, perché il secondo album, come abbiamo detto precedentemente, un album assolutamente che si allontana dal primo, perché deve sperimentare, deve cercare una nuova via praticamente. Sì, infatti è così. Tra l'altro c'è anche un po'... ci sono delle influenze un po' sulla canzone francese. Esatto, no? Un po' chansonnière, un po' qualcosina, ma è giusto che sia così. Ascolteremo un pezzo, insomma, il prossimo brano. Certo. Che è quello, insomma, che rimanda un po' alla canzone francese. Chiaro. Alessandro, parliamo anche un po' della tua etichetta, Mare Mosso, perché se non sbaglio sei sempre legato un po' anche a Delman, anche come etichetta. Sì, in realtà l'etichetta del primo ha un'etichetta Old Time Records, distribuzione Egea, il secondo invece siamo proprio in famiglia, perché è l'etichetta di Alessandro Elman e di Rosario Di Bella, grande cantautore anche lui. Certo. Che hanno fondato questa etichetta, noi insomma siamo amici, ci vogliamo bene, ha detto vabbè ragazzi vi cedo il mio disco, quindi io ho dato il mio disco, insomma, tra l'altro in modo veramente, cioè, senza edizioni, perché sai di solito le etichette, no, dammi le edizioni, dammi il master, dammi la licenza per tutta la vita, invece no, tra di noi insomma siamo veramente tutti onesti, quindi siamo riusciti insomma a trovare un accordo. È un team, possiamo dire così, Roberto? Non ho capito. È un team. Praticamente. Sì, è un team in realtà. Esattamente. Sì, in realtà, sì. Vi aiutate, un bel gruppo. Per fare un disco bisogna che ci sia anche il gruppo, chiaramente. Certo, sì, no, ma infatti è fondamentale. Io da solo non sarei andato da nessuna parte. E detesto soprattutto, non mi piacciono quelle persone che si vantano di fare sempre tutto da solo. No, io credo nel lavoro di gruppo. Infatti ho fatto suonare i migliori musicisti nel disco che di Napoli, insomma, soprattutto. Ho lasciato cantare Ziatra Belsi quasi tutto il pezzo in arabo e poi ho fatto io una parte in napoletano col pezzo scritto da me. Quindi veramente mi piace il lavoro di gruppo, mi piace che tutti partecipino alla cosa in maniera... Quindi ognuno deve avere la sua parte, ognuno fa quello che sa fare. Io scrivo le musiche, canto, i testi ci pensa Alessandro, insomma, bella sta cosa. Certo. Contento. Senti Roberto, noi avevamo, se tutto procede bene, una persona che voleva salutarti. A telefono? Sì, pronto? Pronto. Ci sono, ognuno deve fare la parte sua, lui canta e io scrivo. Pronto, chi è? Abbiamo teso un'imboscata. Ciao Roberto. Io non sento. Lo senti? No, non lo sento purtroppo. Aspetta, non è detto che sia un male. La senti la voce adesso? Ah, sì, lo sento, sì, l'ho riconosciuto subito. Sì. Diciamo il signore dal cognome tedesco. Ecco, abbiamo con noi al telefono, abbiamo voluto fare questa sorpresa a Roberto, ma anche sicuramente è stato un grandissimo piacere per noi avere ai nostri microfoni Alessandro Elman, il paroliere, possiamo dire così, Alessandro? Sì, Mogol si arrabbierebbe, ma io no. Ecco, allora, sta dicendo tutte cose corrette, Roberto Alessandro. Sì, assolutamente, solo che poi lui è esageratamente modesto e quindi tende a minimizzare, però assolutamente sì, ha detto le cose giuste, quali sono stati gli intendimenti del lavoro su questo disco, delle nuove strade che ha provato a percorrere attraverso le contaminazioni, la sperimentazione. E poi io trovo che lui sia stato veramente molto abile nel coniugare comunque la musica colta con la musica popolare, quindi dicendo cose anche non facili, però attraverso un linguaggio accessibile a tutti. Certo. Alessandro Genovese, se non mi sbaglio, sei di Genova? Sì. Roberto Napoletano, cos'è che lega così in maniera forte queste due terre alla fine? Ma sono due terre di mare, e poi il nostro incontro, come ci ha raccontato Roberto, è stato un incontro abbastanza improbabile, attraverso un'inserzione in un mare di possibilità si è scattata questa scintilla. Piazza Santa Maria Liberatrice, testaccio. Considerando qual è la difficoltà nell'Italia di oggi di trovare un interprete, perché ormai sono, nella migliore delle ipotesi, cantanti, devo dire che è stata una fortuna incredibile, almeno per me. Scrive per un interprete, ma un interprete di un certo tipo, che Roberto non è solo interprete, è anche autore delle sue musiche, quindi è una cosa molto importante, Alessandro, decisamente fondamentale, secondo me. Assolutamente sì, e poi porta comunque in ogni lavoro tutta la sua sensibilità, 360 gradi, quindi dalla scrittura all'arrangiamento, dall'esecuzione. Sempre con molto garbo ed eleganza. E quando tu scrivi un testo, poi Roberto ti dà l'idea di quello che musicalmente vuole fare? Ma normalmente sì, nel senso che lui mi fa ascoltare magari delle idee al piano o alla chitarra, e poi le sviluppiamo insieme. Magari io gli dico cosa mi ha suscitato e ci confrontiamo. Insomma, è un bel modo di collaborare, perché ci si stimola vicenda, no? Non facevi come Battisti Mogol, che Battisti scriveva la musica, Mogol poi scriveva le liriche. No, diciamo che ci sono molte interazioni di solito tra di noi durante il lavoro. Certo, chiaramente. Sì, adesso stiamo partendo anche dal testo, che prima se mi sta mandando i testi e io sto scrivendo le musiche. È una cosa insolita, non l'avevo mai fatta, insomma, a una certa età si inizia a fare anche questo. Comunque c'è grandissimo feeling, no, Roberto, tra te sì, e Alessandro? Sì. In realtà bisogna anche citare Fabrizio Gatti, perché è giusto, certo, che quello che diceva Alessandro, perché io scrivo delle canzoni e le canto, alcune non sono mie, sia nei testi né nelle musiche, quindi Fabrizio Gatti è un altro compositore, insomma, che ci ha accompagnato sia nel primo che nel secondo disco, quindi anche Rosario Di Bella. E Rosario Di Bella, insomma, ricordiamo che è autore di colonne sonore, famoso. Esatto, sì, adesso sì, oltre a scrivere canzoni, scrive anche per la televisione, per il cinema. Certo, ed è molto amato al premio Tenco, ha avuto sempre degli ottimi riscontri. Sì, vero. Ecco, diciamo anche che Alessandro, visto che è qui al telefono con noi, non si occupa solo esclusivamente di musica, no Alessandro? Tu fai anche tante altre cose a livello teatrale. Sì, diciamo che ciò che mi interessa sono le storie fondamentalmente, e poi le storie, quando le incontro, trovano da sé la loro strada. Ci sono storie che si riescono a raccontare nello spazio dei 3 minuti di una canzone, ci sono storie che magari hanno necessità di uno spazio più largo, di una lingua diversa, e quindi mi è capitato di utilizzare appunto il linguaggio teatrale oppure proprio di raccontarle su carta, però è una cosa che avviene in maniera abbastanza naturale, non c'è un'intenzione. Certo. Benissimo, allora adesso abbiamo scelto un pezzo, caro Roberto, che tu avevi citato precedentemente, avevi fatto capire parlando della Francia. Eh sì, è un po', c'ha questo sapore un po' francese. Ecco, tu a partire, a me, questo sapore francese, perché questo sapore francese, al di là delle diverse facce che tu hai voluto nel disco? Sì, guarda, in realtà a volte un arrangiamento nasce veramente spontaneo, avendo un testo. Io lo so, tu appartieni a me come il vento alle ronde, insomma, non potrei mai racchiuderti il cielo e per chi vola via. Quindi c'è già veramente un applauso ad Alessandro. Un testo molto bello, molto bello, molto significativo, chiaramente. Quindi quando è nato il pezzo, io col piano, lo abbiamo Samo in studio, e dicevo, raga, che ci mettiamo? C'era il fisarmonicista, parte la fisarmonica, uh-huh. E quindi su quei miracoli che accadono così all'improvviso, dico, vabbè, la fisarmonica... Di Bentivenga, dobbiamo citarlo. Pietro Bentivenga. Esatto, sì. Pietro Bentivenga. Poi c'era la tromba, quindi per rimanere un po' nel jazz, c'è Gianfranco Campagnoli, sì, alla tromba, quindi è nato veramente così. Cioè, a volte delle cose non c'è bisogno di pensarle molto, quindi... certo, certo. Era francese, sembrava francese, così si è evoluta. Chiaro. Roberto, direi che salutiamo anche Alessandro. Ciao Ale, ci sentiamo presto. Ciao Roberto, Alessandro, tutta Blu Radio Veneto ti ringrazia di questa tua cortesia che ci hai fatto questa sera. Comunque avremo modo sicuramente di risentirci, chissà mai, magari anche durante qualche altro programma. Molto volentieri, grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie Alessandro, ciao, Ale, un grosso ciao, saluto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Io lo so che appartiene a me, come il vento alle rondini, non potrei mai racchiuderti, il cielo è per chi vola via. Io lo so, tu appartieni a me, come il fiume ai suoi argini, senza fiato a rincorrerci, ti prendo. Perdimi, lasciami e poi cercami, posati e riposami, fermati qui. Io lo so, tu appartieni a me, come pioggia alle nuvole, su deserti di polvere, sulla mia vita. Siediti e raccontami, posati e riposati, nelle mie mani. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time. La Francia, la fisarmonica, caro Roberto, è la Francia e la fisarmonica, una coppiata, anche un po' di tango possiamo dire, cosa dici? Sì, in realtà sì, perché lui adora Astor Piazzolla, e per cui... Quindi il tango c'è, ci sta, assolutamente. Ci esce molto l'Argentina fuori. Esattamente. Francia ed Argentina, non c'è divisione, come fosse un'unica terra musicalmente, per cui, in qualche momento. Sì, infatti sì. Che poi Astor Piazzolla è stato scoperto in Francia. Esattamente, quindi c'è un collegamento. Poi c'è una persona qui davanti, ti vorrebbe salutare, Roberto. Scommetto che non mi conosci, vero Roby? Agostino. Ciao carissimo. Come stai? Io bene, tu? Ebbene, bene. Sì, grazie di aver accettato questo invito al telefonico. Grazie a te, grazie quanto a voi, meno. Però ti devo tirare le orecchie io, sono 2 anni che ti facciamo la corte. Lo so, purtroppo mi è capitato in questi 2 anni di venire, mi pare, solo una volta a Milano in estate, certo. non potevamo insomma concordare. Senti Roberto, io ne approfitto di rubarti qualche secondo qui in questa trasmissione di Gil e di Maurizio, perché mi sembra giusto, essendo che ci sei tu in diretta, di salutare e ringraziare un'amica che abbiamo in comune tu ed io, e cioè Amélie, che è lei che c'è. Mi sta massacrando i messaggi su Facebook. Ecco. Eccola. Che voleva chiamare e non c'aveva il numero. E come non c'aveva il numero? Bastava che chi chiamasse me al limite. Vabbè, comunque la salutiamo, magari la facciamo salutare un'altra volta, va bene? È stata lei quella che mi ha fatto il tuo nome ancora 2 anni fa. Comunque la canzone Per Sempre non preoccuparti, che resta sempre nel mio cuore, e la voglio, la pretendo qui dal vivo la prima volta che verrai in radio. La faremo, questo me l'hai promesso. Vengo con Paolo, con Amélie verrò, quindi. Speriamo, salutiamo anche Paolo. Io non rubo altro tempo, perché poi tra l'altro ho la diretta alle 22 sempre con Maurizio, con un altro tipo di musica. Roberto, io ti saluto caramente, ti mando un abbraccio, ti aspetto grazie ancora. Okay. Ciao. Roberto, il tempo veramente, veramente vola qui, avremo ancora tantissime cose da parlare io e Maurizio, ma veramente il tempo... vola e non ci accorgiamo. Allora, senti, però io volevo portarti anch'io i saluti di due persone. Una è Serena Finatti, che è tra i semi finalisti del Musicultura 2013. Sì, è nella giornata mia, nello stesso giorno mio, mi fa fare, forse la incontrerò. Ecco, vero. Perché appunto diciamo che Roberto Giordi e anche Serena Finatti, che tutti noi salutiamo, sono appunto tra questi 45 semifinalisti di questa importante manifestazione della musica d'autore. Roberto, per questo noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Crevino i dubbi cattivi. Quindi una delle ultime cose, se hai qualche riferimento, se qualcuno volesse intanto acquistare i tuoi CD. Sì, allora, il primo lo trovate ovunque, in tutti i negozi, Feltrinelli e roba varia, iTunes. Il secondo su iTunes si può ordinare dal mio sito, cioè dal sito dell'etichetta, anche dal mio sito internet. L'inizio dell'etichetta è www.maremosseedizioni.com e da lì insomma è facilmente acquistabile. Poi insomma sono in digitale ovunque, quindi ecco, comunque poi i miei concerti, quindi i concerti, qualche data, Roberto? Ne ho fatte 2 in Campania, adesso stiamo organizzando il concerto per Roma, quindi una nuova presentazione dell'album a Roma, poi ci avrò il 15 marzo ad Empoli The Alchemist Club, e poi non so, guarda, stiamo un attimo vedendo un po' dove andare, un po' in giro per la penisola. Benissimo, una cosa velocissima, noi per motivi di tempo abbiamo escluso c'era un prato che è la canzone che abbiamo scelto io ed Alberto Prisco e assieme a Gil per mandare in onda, dare il lancio al disco, perché a me piaceva particolarmente. Perché mi piaceva particolarmente? Perché ha quel folk orientale che io amo, esatto, in modo viscerale. Allora è molto, secondo me, si presta a determinate ore di notte, notturno, un pezzo notturno, è molto bello e parla di, è un pezzo ecologico. Qualcuno ha scritto, un critico ha scritto, una ninna nanna ecologica. È una ninna nanna ecologica, esattamente, ha individuato perfettamente insomma il senso. Ecco, Roberto, quindi per noi è giunto il momento purtroppo di salutarci. Prima di farlo, hai tutto un reparto del pronto soccorso qui di Campo San Piero, in provincia di Padova, che è sintonizzato su Blu Radio Veneto, che ti saluta. Ne approfitto per salutarli. Grazie, perché grazie, un saluto a tutti. Sono veramente in tanti e ti stanno ascoltando in questo momento. Ecco, ti porto i saluti di tutto il pronto soccorso di Campo San Piero. Grazie mille. Ecco, quindi niente, ti ringrazio personalmente di tutta la tua disponibilità. Grazie a voi per la disponibilità, simpatia e veramente per l'affetto che dimostrate nei miei riguardi. Certo, noi rimarremo sempre in contatto per sapere se ci saranno delle novità. So che ci stai lavorando un pochino per il terzo CD, comunque avremo modo di sentirci quando partirà anche questo mio programma di solo musica. Sicuramente avremo modo, magari brevemente, come tanti altri artisti emergenti, di sentire Roberto ai nostri microfoni per un saluto. Grazie, grazie ancora. Grazie, un saluto da Agostino, dal sottoscritto Gilles Facchinelli. E da Maurizio Calzavara, grazie Roberto. Ciao, ciao, ciao. A risentirci, un abbraccio ciao, a tutti. Grazie. Guarda come piove, il colore stringe di come una fotografia. Non so se mi pensi, non so se mi manchi, se mi hai detto una bugia, se l'inverno annega anche il Bahia. Il fiore che non coglierò, e la bellezza che non so, e la tua vita che non ho, e il tuo sorriso che non ho baciato. Guarda come piove, sarei in buona compagnia nell'inverno di Bahia. Il fiore che non coglierò, è la bellezza che non so, è il tuo sorriso che non ho, la tua vita che non mi ha incontrato. Il fiore che non coglierò, è la bellezza che non so, il tuo sorriso che non ho, e la tua vita che non ho, e la bellezza che non so.